l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza in cambio della vita. E non lo senti che questo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa più. Ma non sei di una sola, ora siamo in due. Io ci sarò comunque, vada. L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non lo senti che questo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa più. Ma non sei di una sola, ora siamo in due. Io ci sarò comunque, vada. Oh, ci sarò comunque, vada. Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.